79. Risotto alla milanese secondo. Questo risotto è più complicato e più grave allo stomaco di quello precedente, ma più saporito. Eccovi la dose per 5 persone. Riso, grammi 500, burro, grammi 80, midollo di bue, grammi 40, mezza cipolla, vino bianco buono, 2/3 di bicchiere, zafferano quanto basta, parmigiano idem. Tritate la cipolla e mettetela al fuoco col midollo e con la metà del burro. Quando sarà ben rosolata, versate il riso e dopo qualche minuto aggiungete il vino e tirate la cottura col brodo. Prima di ritirarlo dal fuoco, aggrassiatelo con l'altra metà del burro e col parmigiano e mandatelo in tavola con altro parmigiano a parte.